Non ho capito bene che cosa avesse in mente il giudice Di Pietro quando ha parlato della necessità di una soluzione politica a quello che per lui è diventato a quanto sembra un insopportabile onere professionale. Ma non c'è dubbio che la sua proposta, per vaga che fosse, ha avuto un grande successo. Si è sparsa come un incendio spinto dal vento su una pianura riarsa, infiammando i cuori e dando aria alla penna di politici e commentatori di ogni genere e risma. Per evitare che l'Italia sprofondi senza remissione nel gorgo delle tangenti, che il dollaro e il marco volino sopra le 10.000 lire, che la borsa ripiombi al minimo storico, la produzione si fermi e le istituzioni si sfascino, ci vuole una bella soluzione politica. Anzi, preghiamoci a trovarla perché il tempo stringe. Sarà, non discuto. Ma non vi sarà sfuggito, spero, che il concetto, se non la proposta, in sé è affatto ovvio, al limite del pleonasmo. Visto che, stringi, il guaio del nostro paese consiste nel fatto che viene insediato ad ogni livello dirigenziale possibile una classe politica venale e corrotta, che è fuori di dubbio un problema politico, la soluzione non può che essere politica, e a occhio e croce non sembra potercene essere una diversa dell'immediato licenziamento della classe in questione e della sua sostituzione con un altro gruppo di governanti di maggiore presunta affidabilità. Poi, naturalmente, resterà il problema di mandare i ladri in galera o alla ghigliottina o alle miniere di sale o ovunque sia opportuno mandare chi ha allegramente depredato le scarse risorse comuni. Ma questo proprio un problema politico non è. È un problema squisitamente giuridico, anzi giudiziario, e almeno in teoria nella civiltà costituzionale contemporanea il piano della politica e quello del diritto sono, se non proprio non comunicanti, certamente diversi e separati. Semmai si potrebbe affermare che la soluzione politica di cui sopra renderebbe molto più agevole la soluzione del suo corollario giudiziario, nel senso che i ladri in questione, orbati dalle prerogative, guarentigie e immunità varie di cui si accampano, sarebbero incarcerabili con molta maggiore facilità. Bene, non so voi, ma a me non sembra proprio che questa sia la soluzione politica auspicata da tutti. È vero che sull'opportunità di riqualificare le istituzioni rinnovando le assemblee elettive e i corpi esecutivi sembrano d'accordo in parecchi, ma sull'invio immediato a domicilio e relativo abbandono al proprio destino degli attuali titolari regna molta prudenza. Prima, dicono, bisogna cambiare le norme elettorali, se no non serve a niente. E gli unici che possono cambiarle, ahimè, sono gli eletti attualmente in carica. Come a dire che a gente nota per aver largamente infranto le regole vigenti va affidato l'incarico di stabilire le regole future, che è un po' come incaricare le volpi di costruire nuovi e meno accessibili pollai. Come soluzione politica non c'è male. No, per quanto l'idea a qualcuno possa piacere, quella di mandare a casa i governanti non è evidentemente una soluzione che accenda d'entusiasmo commentatori, ministri, parlamentari, presidenti della Repubblica e quant'altri. Ma siccome non è la prima volta che l'espressione ricorre nei pubblici dibattiti, non è difficile capire che cosa intendano davvero costoro. Parlavano di necessità di una soluzione politica anni fa quelle anime pensose che pensavano che non si poteva risolvere la crisi del post-terrorismo limitandosi a considerare un pericoloso criminale da condannare sempre e comunque al massimo della pena chiunque fosse implicato per qualche verso nelle organizzazioni variamente coinvolte nella lotta armata. Di fronte a un'intera generazione di militanti politici più o meno criminalizzati, la soluzione politica, tra virgolette appunto, avrebbe dovuto saper distinguere ed eventualmente giustificare, riconoscendo in quell'infernale guazzabuglio degli anni 70 un certo numero di responsabilità collettive da non attribuire automaticamente ai singoli. Diciamolo pure, soluzione politica in quel contesto significava emanazione a certe condizioni di un provvedimento di clemenza mirato, una qualche forma di amnistia, di indulto, di sconto generale delle pene, qualcosa che riconoscesse e premiasse la politicità di comportamenti che altri preferivano etichettare come puramente criminali. All'epoca, ricorderete, La proposta fu respinta dalla classe politica e dalla magistratura tutta con genuino orrore. Dopo un adeguato balletto di laie e di querimonie ci si limitò, come si fa spesso nel nostro paese, a togliersi dai piedi alla chetichella quanti fossero disposti al gesto, assolutamente non politico, della biura personale e a tenere rinchiusi con grande evidenza e a titolo di capo espiatorio quelli che no, a prescindere da qualsiasi seria attribuzione di responsabilità ai singoli. E questa è la situazione vigente ancora oggi. Beh, correggetemi voi, ma non è questo che oggi questo ceto politico penale corrotto, colto con le mani nel sacco, vorrebbe applicare a se stesso? Con la differenza che allora il problema nasceva dal fatto che per necessità si erano criminalizzati molti comportamenti politici, mentre adesso per beneficare i signori delle tangenti bisognerebbe politicizzare molti comportamenti criminali. Perché il senso generale di tutto il discorso è che non si chiede una soluzione politica a un problema politico o una soluzione giudiziaria a un problema giudiziario, ma si vuole la commistione delle due sfere, si vuole un intervento politico che elimini le conseguenze giudiziarie. Per il nostro ceto dirigente la parola d'ordine è stata sempre una sola, quella dell'impunità propria, naturalmente. Sono tanti compagni di cui siamo privati, perché questa giustizia li vuole carcerati, però son fianco a fianco con altri proletari che passano la vita dentro i penitenziari. Si stanno organizzando per far delle prigioni una base di lotta contro i padroni. Per questo hanno